Ad alta voce, edizione 20 anni. Galatea Ranzi legge Panorama di Tommaso Pincio. Ligeia venne in Italia un paio di volte durante il loro primo anno di corrispondenza. Passò anche per Roma. Prima di arrivare nella capitale scrisse a Tondi: «Magari ci vediamo». Lui rispose soltanto: «Magari». Non le propose un appuntamento, non le chiese informazioni precise riguardo ai suoi spostamenti. Lei non parlò più della sua venuta a Roma, Tondi fece altrettanto. Fu di fatto la sola rosa che lui non colse. Anche se non saranno mancati i sogni ad occhi aperti in cui prendeva un aereo per Boston e piombava al MIT facendole una sorpresa. Altamente probabile è pure che il desiderio di incontrare Ligeia fosse grande, ma non grande quanto la paura di un avveramento. L'ultima immagine che ho di Tondi risale ai giorni immediatamente seguenti il pestaggio di Ponte Sisto. Mi viene comunque da pensare che un quasi cinquantenne col suo fisico e col suo stile di vita non fosse uno spettacolo. Ma sto malignando. Resto dunque ai fatti. E i fatti sono i 4 anni di fitti messaggi nei quali Tondi e Ligeia si raccontarono molte cose, anche intime, cose che non avevano mai detto ad altri. Messaggi nei quali scambiarono impressioni sui tanti libri che avevano letto, idee sul mondo, sulla vita, sull'amore. Sul finire del 4º anno, forse perché l'arrivo dell'autunno lo immalinconiva più del solito, o forse perché Ligeia era diventata sempre più instabile e incostante, Tondi iniziò a mostrarsi più affettuoso, più voglioso di premure e, diciamola tutta, più sdolcinato. Ligeia viveva in California in quel periodo. Lavorava come ingegnere biomedico presso un'azienda dal nome fantascientifico. Il tono dei suoi messaggi era preoccupante. Dallo stato del letto e dalle cose che lei vi lasciava, Tondi si era fatto l'idea che l'irregolarità della vita di Ligeia avesse toccato vette pericolose, potenzialmente letali. Ogni tanto le scriveva di stare attenta, di non esagerare. La supplicava di aprirsi, di dirgli cosa non andava. Il più delle volte lei non rispondeva, e quando lo faceva o gli diceva di non rompere o era laconica o cambiava discorso. Una sera Tondi le scrisse un lungo messaggio in cui, pur non usando mai la parola amore, di fatto le diceva di averla amata da sempre, pure se alla maniera di un fratello maggiore o di un amico del cuore. Lei gli rispose, usando la parola amore, che l'amore è soltanto dissoluzione, un'intossicazione mortale, una fogna che rende fetidi. L'amore, gli scrisse, istupidisce, è fasullo come un fuoco greco, e io non posso accettare alcuna mistificazione, anche se si tratta di cose astratte come i sentimenti. Io, purtroppo, sono arrivata al punto in cui non mi concedo più voli di fantasia né sogni di promesse che non saranno mantenute. Tondi insisté. Le disse che il suo non era un amore di quel tipo, ma un affetto grandissimo. Le voleva bene, tutto qua, ma tanto. Lei non rispose, smise di scrivergli. Lui perse qualunque controllo. Divenne preda del panico. Viveva costantemente nella sensazione di essere divorato da una voragine dentata e nera. Si sentiva morire. Seguitava a passare ore davanti al computer, fissando il letto sfatto di lei, prendendo nota delle cose che andavano e venivano. Arrivavano tuttavia momenti in cui l'agitazione era tale che, malgrado non volesse, gli risultava impossibile non uscire di casa. Camminava per il quartiere, oppure sedeva al solito chiosco, dove incontrava sempre Squilino, il quale, vedendolo tanto malmesso, gli domandava cosa non andasse, quale fosse il problema. Tondi gli aveva già parlato di Ligeia, ma lo aveva sempre fatto accortamente, come fosse un argomento qualunque, senza mai tradire l'effettiva portata dei suoi sentimenti. Seguitava a non fidarsi di quell'uomo, nonostante fosse presente, nonostante fosse il suo spacciatore, ma con qualcuno doveva pur sfogarsi e si sfogò con lui. Diversamente da quanto faceva di solito, Esquilino non fu prodigo di pareri e consigli. si limitò ad ascoltare, disse solo qualche vaga parola di conforto. Una sera disse però una cosa che si ficcò nella testa di Tondi come un tarlo, rodendogli i pensieri. All'apparenza nulla di così significante, una delle tante sciocchezze elargite da Esquilino nel suo tono oracolare e alle quali Tondi non prestava ascolto, reputandole appunto sciocchezze. E tuttavia, stavolta, c'era qualcosa che non gli tornava, che lo insospettiva. Esquilino gli aveva detto che arriva immancabilmente un momento in cui la vita di una persona manifesta una specie di piega, una forma della quale la persona si ritroverà per sempre schiavo, fino alla morte. «Le persone prendono una piega», gli disse, «esattamente come gli eventi». Tondi non sapeva che senso dare a quell'uscita. Più ci pensava, più la trovava idiota. Dunque cos'era che lui sospettiva? Passò la notte aggirandosi per casa, finché a forza di vagare da una stanza all'altra, l'occhio gli cadde sulla webcam. Non aveva mai notato finora. L'obiettivo era puntato contro un preciso scaffale della libreria, quello dei libri di Edgar Allan Poe. Ne possedeva parecchi, in varie edizioni e traduzioni. Al centro dell'inquadratura era però posto il dorso bianco di un lussuoso volume della Bianca, I racconti di Poe nella traduzione di Giorgio Manganelli. Si ricordò allora che era stato proprio Esquilino a puntare la webcam. La scelta di quel preciso punto era davvero frutto di un caso o vi era un legame col fatto che l'oggetto dei suoi tormenti si chiamasse Ligeia, come un racconto di Poe? E che racconto, poi? Tondi non avrebbe potuto giurarci, ma gli pareva di ricordare anche di avere confidato a Esquilino cosa significasse per lui Ligeia tradotto da Manganelli. Forse ricordava perfino una battuta di Esquilino in proposito, un commento di scontata volgarità che l'erba e i campari gli impedivano però di mettere a fuoco. C'era infine un'altra coincidenza che gli dava da pensare. Edgar Allan Poe è morto a Baltimora ieri l'altro. La notizia sbigottirà molti, ma addolorerà pochi. Il poeta era noto in tutto il paese di persona o per reputazione. Aveva lettori in Inghilterra e in parecchie nazioni dell'Europa continentale, ma aveva pochissimi amici, per non dire nessuno. Ricordava a memoria il denigratorio necrologio comparso il 9 ottobre 1849 nell'edizione serale del New York Tribune, come ricordava benissimo di averne parlato con Ligeia. Quel caso di diffamazione letteraria fu uno dei loro primi argomenti di conversazione. Era quasi certo di averne parlato anche con Esquilino, sebbene non ricordasse a quale proposito. Il quadro gli appariva ancora confuso, annebbiato da un delirio rabbioso e dalla stanchezza. Sentiva però che c'era un legame, un filo che univa tutto. Le somiglianze e le stranezze erano troppe per non far parte di uno stesso mosaico. I problemi di Ligeia col padre, per esempio. Li aveva sempre considerati con simpatia, la prova che lei e lui erano anime gemelle, e tuttavia, che all'odio paterno si accompagnasse un amore per la lettura, non era forse una somiglianza eccessiva e improbabile? Quante probabilità c'erano che una ragazza come Ligeia sviluppasse un tale amore per la lettura in un mondo nel quale nessuno leggeva più, nemmeno i meno giovani? E in base a quale calcolo delle probabilità sarebbe mai stato concepibile che lui non l'avesse sorpresa a letto neppure una volta? Tondi avrebbe potuto continuare all'infinito di questo passo, inanellando coincidenze che offendevano la più sospesa delle incredulità. Seguitava però a sfuggirgli il tassello centrale, il solo che gli avrebbe consentito di ricomporre il complicato mosaico. Ai primi chiarori dell'alba, dopo una notte di speculazioni infruttuose, Tondi stabilì di tentare un'ultima possibilità. Doveva capire perché Mario Esquilino avesse così tante premure nei suoi riguardi. Stando al poeta, i loro trascorsi avrebbero dovuto ispirargli ben altri sentimenti. Più di una volta Tondi gli aveva domandato del manoscritto che lui avrebbe disprezzato. Le risposte erano sempre state evasive. «Acqua passata», diceva Esquilino, «perché rinvangare?» passata un accidenti, pensò Tondi, convinto che il poeta covasse un rancore profondo, benché inespresso. Sentiva che il tassello mancante andava cercato nel manoscritto di cui non ricordava nulla. Doveva rileggerlo e c'era una sola via per farlo. Non andava sul raccordo da anni e guidava ormai pochissimo, soltanto in casi di estrema necessità e per tragitti brevi. La sua piccola utilitaria sostava in una strada laterale, sporca e mal ridotta, aveva l'aria di un veicolo abbandonato, ma si mise in moto senza difficoltà, nonostante qualche strano rumore. Tondi fece il pieno alla prima stazione di servizio e si diresse verso il raccordo. Subito lo prese la nostalgia. Rivedere i cartelli coi nomi degli svincoli fu come ritrovare un vecchio amico. Perciò, da principio, si limitò a contemplare il panorama che scorreva ai lati dell'auto. A poco, tuttavia, sentì risalire la rabbia che lo aveva rispinto al volante. Accelerò, perché più correva, più nitide erano le apparizioni. Era trascorsa circa un'ora e stava toccando i 110 quando ebbe la prima apparizione del manoscritto, il frontespizio. Mario Esquilino, Acque Chete, sillabario delle possibilità di esistere. Che titolo idiota, non mi sorprende che l'abbia scartato, pensò Ottavio Tondi, accelerando ancora. Apparve un'altra pagina, poi un'altra e un'altra ancora. Gli erano apparse una decina di pagine quando una macchina, che si trovava sulla stessa corsia, rallentò di colpo senza un motivo apparente. Tondi schiacciò il freno, ma l'utilitaria non rallentò abbastanza per evitare l'impatto, al che Tondi sterzò, seguitando a frenare. L'utilitaria roteò su se stessa, urtò il veicolo che avrebbe dovuto evitare e si ribaltò. Si adagiò sul tetto dopo un paio di capriole e scivolò sull'asfalto a quel modo in uno sfrigolio di scintille per almeno un centinaio di metri, arrestandosi contro la barriera di contenimento in prossimità dello svincolo di Casal Umbroso. Tondi si risvegliò nello stesso ospedale in cui lo ricoverarono dopo il pestaggio di Ponte Sisto. Nessuno gli fece visita, a parte Mario Esquilino. Si presentò al capezzale a 7 giorni dall'incidente. Tondi non lo salutò. «Ho parlato coi medici», disse Esquilino. «Tornerai come nuovo, pare». Tondi sbottò. «Basta con le stronzate!» «Quali stronzate?» «Le stronzate! L'amicizia, le premure! Ho rimesso assieme i pezzi!» «I pezzi di cosa?» «Panorama, Ligeia, Po, i pezzi!» Esquilino lo guardò. «Lascia che ti dica come la vedo io, però», proseguì Tondi. «Questo spettacolo che hai allestito, questo dolore che mi hai dato, può darsi ti faccia sentire meglio, ma non cambia nulla. Resti un poeta di merda». Esquilino sorrise. Si alzò dalla sedia, gli diede un paio di pacche sul ginocchio e uscì dalla stanza. Mentre Tondi, immobilizzato sul letto, cominciava a gridare: «Non sei Edgar Allan Poe! Non sei Edgar Allan Poe! Sei solo un poeta di merda!» Fu l'ultima volta in cui Ottavio Tondi vide Mario Esquilino. In effetti, fu l'ultima volta in assoluto, non soltanto per Tondi, cioè. Da quel giorno nessuno vide più Esquilino. Si venne a sapere che partì per il Messico, per il Distrito Federale, dove scomparve in circostanze mai chiarite. Trascorsero 20 giorni, Tondi venne dimesso. Non era tornato come nuovo, ma riusciva a camminare con le sue gambe. Una fortuna comunque non disprezzabile, considerata la dinamica dell'incidente. La fortuna maggiore, però, per come la vedeva Tondi, era ciò che aveva ottenuto da quel giro sul raccordo. L'incidente era un prezzo tutto sommato accettabile. Rientrato in casa, si fiondò sul computer, l'accese, si connesse, entrò in Panorama e scrisse di getto una lettera lunga e folle. Iniziava così: «Non so nemmeno perché ti scriva, dal momento che non esisti. Immagino perché ti amo come non ho mai amato nessuna». Dopodiché passò a illustrare a Ligeia il mosaico, pezzo a pezzo, per come lo aveva ricomposto. Nelle condizioni di spirito in cui si trovava, non avrebbe mai potuto essere una disamina razionale. Partì spesso per la tangente, perdendo parecchi tasselli per strada. Si lasciò spesso trasportare dai sentimenti, dalla commozione. raccontò cose della sua vita passata, di quando era ancora lettore, cose che c'entravano poco o nulla con il mosaico che intendeva ricostruire. Si soffermò a rievocare la felicità che aveva provato corrispondendo con lei in quei 4 anni. Tornò più volte a dirle che l'amava, o meglio che l'avrebbe amata da impazzire se fosse stata una persona reale e non un'invenzione concepita perché lui si rendesse ridicolo. Le rinfacciò le ore sprecate a sorvegliare il suo letto. In questo guazzabuglio, malgrado l'incoerenza e il delirio, un succo era comunque discernibile. Molti anni addietro, quando era ancora lettore, Ottavio Tondi si vide sottoposto un manoscritto. Difficile stabilire quali fossero le pretese, se d'ordine poetico o filosofico o artistoide. Ciò che era indubitabile era la sua pochezza letteraria. Il giudizio di Tondi, spietato e senza appello, si sparse presto nell'ambiente. Nessun editore volle pubblicare il libro. Qualche tempo dopo, l'autore scrisse una lettera a Tondi nella quale si raccontava la storia di un necrologio diffamatorio comparso il 9 ottobre 1849 sull'edizione serale del New York Tribune. Il necrologio era firmato Ludwig, nomignolo dietro il quale si nascondeva Rufus Wilmot Griswold, nemico segreto e acerrimo di Poe, il poeta diffamato nel necrologio. Non contento di aver infangato su un giornale la memoria del genio appena scomparso, Griswold si spacciò per suo esecutore testamentario, falsificò alcune lettere e pubblicò un breve memoriale nel quale diede di Poe un'immagine spregevole, definendolo alcolizzato, piomane, perverso, iracondo e lunatico. Per quasi 30 anni, il memoriale di Griswold restò di fatto l'unica biografia disponibile, ammesso potesse chiamarsi biografia. Gli effetti furono così devastanti che un secolo dopo c'era ancora chi biasimava Poe sostenendo che entusiasmarsi per la sua opera fosse segno di un discernimento decisamente primitivo. Le stesse parole con cui lei, signor Tondi, concludeva l'autore nella lettera, ha liquidato il mio libro, guastandomi per sempre irreparabilmente la reputazione. Immagino ne vada fiero. E le consiglio di godersi questo momento di gloria effimera finché dura. Arriverà il giorno in cui anche la sua vita prenderà la piega che merita. Non vorrei essere al suo posto quel giorno. Al futuro, Mario Esquilino. Col tempo Tondi si era completamente dimenticato sia del manoscritto di Esquilino sia della sua lettera. Gli era tuttavia rimasta impressa la storia di come Poe fosse stato diffamato dal suo nemico. Ne fece oggetto di studio e riflessione, forse perché, in un angolo riposto della sua mente, presagiva che un giorno o l'altro la sua strada e quella di Esquilino sarebbero tornate a incrociarsi. Galatea Ranzi ha letto Panorama di Tommaso Pincio, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.